diteci voi se poi è bello lasciarsi trasportare dalla deriva fino al fondo del mare, su di una barca che sta per naufragare. Il timoniere è pronto ad evacuare, oppure fare dei remi una pistola, puntarla in testa a chi non ha memoria, cambiare rotta, legare il capitano. Il mondo è nostro, di noi che ammutiniamo. Forza sì, stiamo cercando te, o meglio quelli che sono proprio come te. Capisci ora te, se tutto mangia il re, poi tutto mangia il re. Niente più mangi te, più niente. Siamo l'enigma di questa realtà di merda, siamo la freccia della società moderna. Siamo conigli dentro nella nostra terra, ma siamo pronti fuori a scatenare la guerra. Siamo le api di questo immenso alveare, ci dite voi da sempre cosa costruire. Ma la regina non ne vuole più sapere del nostro polline. Daremo calci alle pareti di questo sistema che sta in piedi, grazie a chi non sa più dire libertà. Metteremo ali ai vostri piedi, fieri di un destino che ci ha resi i nuovi Don Chisciotte della civiltà. Tutti sudditi di sua maestà. Non è più tempo di stare a guardare. Di stare a guardare. Festeggiare. E sotto noi la terra sputa ancora il sangue, mentre palazzi e chiese sono ancora in fiamme. Una donna piange in strada a fianco di una scuola. Come farà suo figlio a capire la vita? Non è capace lei di dare un senso a tutto questo caos che sente dentro. Non è poi facile affatto da raccontare la fame di chi mai prima aveva visto il pane. Che resta adesso nella città non è che qualche vecchio da consolare. Tornerà tutto a posto, state tranquillo, avrete ancora un padrone, statene certo. E mentre giù in taverna c'è chi si ubriaca di vino, gin o birra, non più di rugiada, nel palazzone a fianco della barricata saranno ancora in cinque a scrivere la storia. Viva il re!